È sotto gli occhi di tutti che dovremo affrontare una terribile tempesta di guerre e di sangue. Il peggio è che in molti moriranno, non per un dio né per una terra, ma per arricchire ancor di più chi è potente. Ministri sciagurati scongiurano il complotto. Ma allora a cosa servono i massoni e la loro stirpe, se non ad applicare di Satana il loro sporco patto? Profezia che mi fa paura, né chi urla come un matto alla scongiura, ma chi grida che non esistono persone malevoli, figlie della mediocrità, che generano indifferenza ed umiliano ogni dignità. Negarne l'esistenza equivale ad accettarne la loro presenza, e mentre il mondo si crede libero, in libertà, loro disegnano le più atroci atrocità. Parlerò della lettera che Giuseppe Mazzini ricevette da Albert Pike, né della sciagurata partecipazione di costui al Cuscus Clan. L'Italia è veramente nata da un patto segreto della massoneria? Perché alcuni degli esponenti più prestigiosi della politica sono iscritti alle logge massoniche? Per quale ragione? Nei suoi scritti il Pike, maestro del 33° grado, descrive come adorare Lucifero. Ma allora come possono ritenersi cattolici o musulmani o buddisti coloro i quali partecipano alla massoneria? Perché si prostano ai suoi piedi e lo venerano come un dio? L'albero di Lucifero si riconosce dai suoi frutti. Semina discordia, mentre l'altra parte del mondo si autoproclama figlia della lussuria. La perversità impera, e non saranno le false elemosine che l'Occidente divulga a nascondere la volontà di voler dominare e sottomettere il mondo. Quante lune dovranno sorgere affinché l'umanità ritrovi la strada, l'unica strada, la strada della luce.